Linee d'ombra di Matteo Caccia. Sono dovuto nel tempo un po' accontentare le briciole che mi lasciava. Quel poco che metteva me lo facevo bastare per un bel po' di tempo. Tutti questi paletti dai a lei posti a protezione del suo presunto non coinvolgimento rendevano il tutto ancora più difficile e quindi enormemente interessante. Storie di uomini non ricambiati e di amici che provano ad amarsi in una puntata che si intitola Istruzioni per innamorarsi. La verità è un'altra. Bisogna saper guardare in faccia la realtà. È stato un sogno molto bello e basta. Tu hai 18 anni, io ne ho 52. Non è per quei 34 anni di differenza che poi sarebbero in meno. È che il nostro amore non può avere nessun avvenire. Coraggio, Titti. È meglio che ci togliamo il coltello dalla piaga. Non ci passiamo più. Addio, Titti. Addio, merdaiolo. Ci si vede domani al solito posto, a mezzogiorno. No, alla mezza. A mezzogiorno un pignoramento. Va bene. Ogni giorno alle 15 un piccolo pacchetto di storie che vi regaliamo. Lo facciamo da settembre e lo facciamo con ancora maggiore volontà e con maggiore gioia in questi giorni in cui tenersi informati è fondamentale, in cui Radio 24 quotidianamente 24 ore al giorno vi racconta la situazione e noi continuiamo a raccontarvi delle piccole o grandi storie. La puntata di oggi si intitola Istruzioni per innamorarsi e racconta storie che stanno al confine tra essere completamente persi per una persona e il semplicemente no, perché purtroppo l'amore non ha vie di mezzo, non è che su un diametro per cui da una parte c'è uno che è bollito cotto e dall'altro c'è uno che semplicemente non è interessato a un uomo o a una donna, in mezzo ci sono delle possibilità. No, la linea d'ombra lì è proprio nettissima, è o sì o no. O ti amo, oppure mi dispiace, non è accaduto. Abbiamo aperto con questa scena bellissima tratta dai Amici miei, avrete riconosciuto, immagino, se siete dei patiti, la voce di Ugo Tognazzi che fa la parte del Conte Mascetti e che decide un giorno che deve lasciare questa ragazza con cui ha una relazione, lei è troppo giovane, non va bene farlo, non va bene che vada avanti e quindi decidono di chiuderlo con il risultato, l'esito che avete sentito proprio in chiusura di questo pezzo audio. Linee d'ombra chiocciola radio24.it è l'indirizzo per continuare a mandarci le vostre storie. Noi abbiamo, vi diamo due possibilità se avete voglia di raccontare in questo periodo. Uno è il solito, cioè uno è quello di mandarci delle storie che raccontino qualcosa di voi, che hanno a che fare con un confine, con un passaggio, con una linea che avete valicato. Possono essere storie che riguardano la vostra infanzia, che riguardano le vacanze, che riguardano, le ricordate le vacanze? Ecco, ritorneranno, che riguardano i viaggi, che riguardano gli innamoramenti. E poi c'è uno nuovo che abbiamo istituito proprio in questi giorni, a cominciare da ieri, in questa settimana, e sono: se per caso avete voglia di raccontarci il diario della vostra nuova, speriamo, breve vita dovuta a questa emergenza che stiamo vivendo, e quindi c'è qualcosa che chiaramente è cambiato nella vita di tutti, le abitudini, gli orari, il modo in cui si lavora. Ecco, se avete voglia di raccontarcelo, noi stiamo raccogliendo piccoli diari di questa nostra nuova vita. Linee d'ombra @radio24.it. Abbiamo cominciato a farlo proprio partendo da noi, partendo dalla nostra redazione, perché ormai sono un paio di settimane che Anita Panizza, che ha una famiglia, dei bambini, insomma, ci racconta come va, ci sentiamo da casa, come tutti, no? Come tutti stiamo facendo. Facciamo riunioni da casa, per cui mentre si parla, sì tesoro, arrivo subito, aspetta un secondo, vengo da te, lo stiamo imparando un pochettino tutti come funziona. E quindi abbiamo chiesto proprio ad Anita, perché non ci racconti tu il tuo diario di una giornata in questa nuova vita? E quindi siamo partiti da lei. Maria Montessori sarebbe orgogliosa di me. E chi l'avrebbe mai detto? Io, una delle utenti più attive di una pagina Facebook che si chiama Mamma di Merda. Già, questo coronavirus mi sta facendo vivere una delle esperienze più intense e appaganti di genitorialità. Sono mamma di due maschi di 3 e 5 anni e volevo una femmina. Poi mi sono consolata ripetendomi che in fondo i maschi sono più facili, in fondo sono basici. Invece, in questo periodo in cui tutti gli orari sono ribaltati e la routine è completamente saltata, mi sono accorta che non è vero. I maschi, anzi due maschi di quell'età, chiusi in casa praticamente tutto il giorno, non sono basici. Sono devastanti. Lo sono fisicamente, quando mi placano per terra e i miei pochi residui addominali non ce la fanno a tirarmi su. Quando mi si avvinghiano alle gambe e si fanno trascinare perché è divertente. O quando il piccolino, che ha la stazza di Bud Spencer in miniatura, si divincola dal mio braccio se capisce che lo sto portando a cambiare il pannolino. Nella prima settimana di chiusura delle scuole stavo impazzendo. Lavorare da casa con loro attorno è complicato, ma lo è di più se gran parte delle tue energie le spendi urlando, arrabbiandoti, ricattando, mettendo in castigo per ottenere più urla, disobbedienza e nervosismo da parte loro. La seconda settimana mi sono detta: i bambini, si sa, imitano gli adulti. Inizio io, do il buon esempio. E così comincio ad essere più paziente, più dolce, sempre in ascolto e molto affettuosa, anche se ferma nella comunicazione delle regole. Divento una mamma autorevole e non più autoritaria, e i bambini cominciano a seguirmi. Mi faccio aiutare a sparecchiare, perché possono portare anche i bicchieri di vetro. Il grande mi fa da assistente quando cambio il piccolo. Insomma, proprio come vorrebbe la cara Montessori. Li sto schiavizzando per bene, e loro sono tutti contenti. Mi sembrano felici, un po' meno annoiati, e io sono tranquilla. Trovo anche il modo di lavorare, magari un po' più di notte. E se proprio sono stanca o quel giorno la mia pazienza è andata troppo vicina all'esaurimento, apro Facebook, lascio qualche commento alle sorelle mamme di merda e mi apro una birretta. Una piccola pagina del vostro diario, della vostra nuova giornata, della nostra nuova vita, della nostra, non solo vostra, nuova vita di questi giorni che, ripetiamo, speriamo sia intensa sicuro e speriamo che sia anche molto breve. Comunque, quel che durerà, durerà. Se avete voglia di raccontarcelo, linee d'ombra@radio24.it. Basta davvero una pagina o mezza pagina e noi ve la raccontiamo. Oppure, se volete non pensarci e raccontarci altre storie, siamo sempre disponibili. Fate come Giacomo, che in una puntata che si intitola Istruzioni per innamorarsi ci ha raccontato del confine tra l'amore e il non amore. Benvenuti a Linee d'Ombra. Mentre sono qui a scrivere al PC, lei è qui vicino a me, seduta di fronte a un altro PC. Sta scrivendo o cercando di scrivere la sua tesi di laurea, perché forse si laureerà ad aprile. Non può neanche immaginare che sono qui a scrivere un pezzettino della nostra breve storia. Ci siamo conosciuti da colleghi di lavoro. Entrambi condividevamo lunghe giornate presso le diverse sedi della società clienti in quanto revisori contabili. È stato un caso, quindi, che trovassimo nello stesso team, lì, presso una delle società dove dovevamo svolgere questa attività. Il caso ci ha dato quindi l'opportunità di conoscerci e di iniziare a distribuire su quattro spalle il peso, la tensione e la stanchezza che prima avevamo soltanto sulle nostre. Prima solo lavorativamente, poi anche sentimentalmente. Io e Rosalba ci siamo avvicinati perché lavoravamo in un team per una società di revisione e quindi ci trovavamo chiaramente a lavorare con dei ritmi molto, molto intensi, quindi ci trovavamo la mattina molto presto e terminavamo la sera molto tardi. Chiaramente i colleghi diventavano i tuoi compagni della vita alla fine, perché sembrava di fare sicuramente uno passava più tempo con loro che con la famiglia. Eravamo entrambi liberi, seppur oppressi dal lavoro, di partire per questa nuova avventura. Inizialmente l'abbiamo vissuta entrambi in modo molto sportivo. Se ci vedevamo bene, se non ci vedevamo andava bene lo stesso. Così è andata avanti per i primi mesi, 3 o 4. Dopodiché è successo un fatto strano e inaspettato. Sì, mi sono innamorato. Thank you. Mi sono innamorato pur sapendo che non avrei dovuto farlo. Lei mi aveva già più e più volte ripetuto che la nostra storia la stava vivendo come frutto del momento. Il famoso carpe diem. Ma se il momento o il contesto fosse cambiato, sarei potuto sparire altrettanto velocemente. Era ovvio che la prima e più semplice forma di difesa sarebbe stato quello di tenere ben presente questi elementi chiari e incontrovertibili. Ma noi non siamo macchine e l'impresa ardua ha fatto salire il suo valore alle stelle. Tutti questi paletti che lei poneva a protezione del suo presunto non coinvolgimento rendevano il tutto ancora più difficile e quindi enormemente interessante. Lei mi piaceva e tutte queste mura mi hanno spinto a provare un gesto da eroe. Il cuore ha probabilmente spinto inconsciamente per l'assedio. Rispetto al primo periodo in cui siamo rimasti emotivamente distanti, il secondo è stata la Waterloo delle battaglie amorose. Allora, la situazione che si era venuta a creare, in cui io ero molto attratto e spinto verso di lei, e quindi questa cosa anche veniva sicuramente aumentata esponenzialmente dal fatto che lei invece si ritraeva, faceva invece, per quanti passi in avanti facessi io, lei ne faceva altrettanti all'indietro. Era principalmente, un po' me l'aveva spiegato, dovuta al fatto, alla storia diciamo che aveva avuto con l'ex, che lei aveva lasciato e che aveva sofferto molto, ecco, non tanto lei quanto l'ex, perché lei aveva preso questa decisione e non voleva che si ricreasse una situazione magari in cui poi sarebbe stata lei di nuovo a tirarsi indietro da una storia e quindi far soffrire la controparte, ecco. Da una parte la mia presenza frequente, dall'altra il suo sentirsi oppressa. Il mio abbraccio, il suo divincolarsi. Il mio bacio sulla bocca, la sua guancia. È scappata da quello da cui probabilmente sta fuggendo da sempre. Siamo stati un periodo senza scriverci, chiamarci, cercarci. Me lo sono imposto io. Non volevo cascarci un'altra volta. Non volevo farmi venire in mente la frase «Ma vedrai che questa volta sarà diverso». Ci speravo ovviamente, ma sapevo che non era così. La storia dovrebbe insegnare qualcosa e infatti ci sono ricascato. Ora che sono qui di fianco a lei, perché lei ha giurato di avere sbagliato, di essermi lasciato prendere troppo la mano, non avere compreso le sue necessità, i suoi spazi, i suoi bisogni, lei ci ha creduto e ha fatto finta di crederci. La voce mia continua a dire «Bravo scemo, tutto questo finirà e starai male nuovamente». Le ho risposto «Hai ragione, ma non riesco a farne a meno». Well, I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. Now throw it in the current that I stand upon so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. L'amore è tutto, canta The Tallest Man on Earth, che Luca Micheli ha scelto per chiudere la storia di Giacomo in una puntata che si intitola Istruzioni per innamorarsi. Pronto? Ciao Giacomo, buongiorno. Ciao, ciao Matteo, ciao, buongiorno. Giacomo, inevitabile in questi momenti chiedere come stai? Bene, oggi bene. Direi bene, non siamo più in quella situazione lì, nel senso che è una storia che risale a 2 anni fa, ma che mi faceva piacere condividere, insomma, e tu hai fatto con bene. Voi. Io in realtà ti chiedevo come stai, non rispetto alla storia d'amore, ma rispetto alla situazione sì, sanitaria. Però direi che stai bene, la tua risposta mi fa capire che stai bene. Sì, stai se penso a quell'aspetto lì, sì. Stai facendo lavoro da casa, che cosa fai tu nella vita? No, attualmente no, lavoro a Torino, senza fare il nome, per un'azienda dell'automotive di Torino, che è chiaramente una, però... Cioè, è quella lì, però, Quella è. E farai una cosa per cui non puoi lavorare da casa, immagino. Al momento no, gli sviluppi. No, potrei lavorare da casa, vedremo gli sviluppi quali saranno. Invece questa storia risale a 2 anni fa. Esattamente, sì. Senti, quando l'ho scritta era febbraio 2018. Quindi era finita da poco? Eravate nel mezzo. Era in corso, nel senso che lei si è laureata poi effettivamente ad aprile 2018. Certo. E partendo dalla fine, la storia si è interrotta poi durante l'estate del 2018. Quindi, insomma, da febbraio qualche mese è proseguita ancora. Sì. Però mi piace la tua lucidità, perché mentre la raccontavi, mentre la scrivevi, eravate nel mezzo, appunto, tu ci dici sono qui con lei. Tu eri lucidissimo nel sapere che questa cosa sarebbe andata in una direzione, e in quella direzione è andata. Sì, nel senso che dentro di me lo sentivo che non era un rapporto sano. Mm-hmm. Però allo stesso tempo non volevo rinunciare a quel tipo di rapporto lì. Io non ho mai fatto uso di sostanze stupefacenti, però secondo me si era creata una situazione molto simile a quella che uno ha quando assume delle sostanze proibite, perché uno aspetta quei 5 minuti e magari di felicità per poi ricadere in una situazione invece in cui non gli va bene niente e in cui è scontento, ecco. Certo, c'era una forma di dipendenza a tutti gli effetti. Perdonami, alla fine sì. La frase che tu metti tra virgolette, immagino quindi se l'abbia pronunciata lei: sto vivendo questa storia come frutto del momento, è proprio sua? Sì. Il carpe diem e il frutto del momento sono frasi sue. È una specie di sentenza. Sì, erano martellate che io sentivo quotidianamente, perché io non la vivevo così, chiaramente. Cosa dicevano i tuoi amici, Giacomo, quando gliela raccontavi? Se l'hai raccontato qualcuno? Quello che dicono tutti gli amici: lascia perdere. Ed è quello che probabilmente tu diresti a un tuo amico in quelle condizioni, immagino. Probabilmente sì, e l'ho fatto anche di dirlo, pur sapendo che io non ho rispettato quello che ho detto, ecco. Senti, ne sei uscito particolarmente tramortito alla fine? Allora, inizialmente sì, nel senso, quando è finita appunto nell'estate di 2 anni fa, abbastanza. Paradossalmente mi ha aiutato tanto il fatto che fino a quel momento io vivevo con la mia famiglia a Firenze, e mi ha aiutato molto il trasferirmi appunto a Torino a vivere, perché quando stai in casa appunto con la famiglia non hai nulla altro a cui pensare se non andare al lavoro e fare il tuo, poi alla fine hai un sacco di aiuti in più. Il fatto di venire qui a Torino e di dover tener conto di tante piccole cose, dalla spesa alle pulizie a cose veramente la vita, banali, insomma, stupide, la vita che ti arriva addosso, certo. Mi ha aiutato tanto, ecco. Giacomo, adesso hai uno straccio di fidanzata, hai qualcuno che ti ama? Sì, assolutamente. In questi giorni difficili è una piccola luce, insomma, ci piace raccontare anche piccole cose che stanno funzionando e che torneranno a funzionare. Sei fidanzato da tanto? Sì, alla fine siamo più di un anno e mezzo. E lei la sapeva questa storia, Giacomo? No, no, non la sa tuttora, no. E noi gliela racconteremo? Penso di sì, se gliela spiego bene ha un senso, non c'è nulla di cui vergognarsi. Ma no, assolutamente. Poi è tutto in tempi non sospetti, direi, quindi sì, assolutamente. Quindi, Di lei abbia notizie invece? Di lei, scusa? Di lei abbiamo notizie della ragazza? E allora, ultimamente l'ho sentita, mi ha scritto per appunto questa situazione, diciamo, emergenziale, soprattutto nel nord, ci siamo sentiti e lei ora si trova nella situazione, in realtà, da quando abbiamo interrotto, che è stata lei a riavvicinarsi. Chiaramente. Questo invece non lo racconteremo alla, alla nostra fidanzata. Giacomo, io ti ringrazio, per la storia e per come ce l'hai raccontata a cuore aperto. In bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Grazie a voi e complimenti ancora. E riguardati, come si dice in questi momenti. Assolutamente. Ora, assolutamente. Grazie. Ciao Giacomo. Ciao, grazie ciao. A voi. Ciao, sentiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Quante volte ascoltando le nostre storie ti è capitato di pensare anche io ho vissuto una cosa simile, anche io ho una storia da raccontare? Ecco, se ti è successo, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso. Un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un momento di passaggio, un confine tra chiaro e scuro, tra luci e ombre. Quando ti sei innamorato, quando hai scelto di cambiare le cose, quando da ragazzo un avvenimento anche piccolo ti ha segnato per sempre. Piccoli confini, sottili linee d'ombra che hai varcato. Scrivilo e spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. Istruzioni per innamorarsi, storie che stanno al confine tra l'essere follemente innamorato di una persona e no, semplicemente, ed essere siamo amici, torniamo a essere amici, oppure no, sei innamorato no, però è simpatica. La prossima storia arriva dagli Stati Uniti. I protagonisti sono due, si chiamano Jessica e Timothy, sono amici da lungo tempo, entrambi stanno a New York, entrambi hanno più o meno 30 anni. Jessica è una tipa molto romantica, è sempre pronta a saltare all'interno di una relazione, cioè all'interno, saltare dentro una relazione, inteso come a entrare in una relazione. Timothy invece non vuole troppi legami. Frequenta più ragazze, lo fa anche contemporaneamente, però è stanco di questo genere di rapporti. Approfittano di un periodo in cui entrambi sono single per provare a fare un esperimento. Un esperimento in cui loro stessi sono le cavie. Partono dall'assunto che ci vogliono, in teoria si dice, 40 giorni per cambiare una cattiva abitudine. Dunque, attraverso una serie di passaggi obbligati, si danno 40 giorni di tempo per cambiare il loro modo di approcciare una relazione sentimentale, senza sapere dove sarebbero arrivati dopo quei 40 giorni. In una puntata che si intitola Istruzioni per innamorarsi, la seconda storia di oggi e la loro. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Poche regole ma buone. Regola numero 1. Vedersi tutti i giorni per 40 giorni ininterrottamente. Regola numero 2. Combinare almeno 3 uscite a settimana. Regola numero 3. Andare a una terapia di coppia almeno una volta a settimana. Regola numero 4. Fare un viaggio insieme nel fine settimana. Regola numero 5. Redigere un questionario e un diario tutti i giorni. Regola numero 6. Non frequentare, incontrare, chattare né tantomeno fare sesso con chiunque altro. Queste sono le 6 semplici regole che Jessica Walsh e Timothy Goodman si sono imposti di rispettare per 40 giorni, dal 20 marzo al 28 aprile del 2013, 7 anni fa. Tutto quello che sarebbe accaduto in quei 40 giorni sarebbe diventato un progetto editoriale fatto di appunti, video, disegni e un diario scritto a quattro mani. Il diario del primo giorno racconta il loro incontro iniziale, in un locale nel Lower East Side. Da subito emergono sensazioni opposte. Tim, ad esempio, insiste per pagare il conto. Per lui è pur sempre un appuntamento con una ragazza. Jessica però ci rimane male, le sembra che l'amico sia partito col piede sbagliato. Tutti i giorni scrivono un resoconto sincero e privatissimo, rispondendo entrambi alle stesse semplici domande. Che cosa avete fatto oggi? Cosa hai scoperto di lei o di lui? E che cosa di te? È successo qualcosa di interessante? Vuoi aggiungere qualcosa? Alla fine dei 40 giorni il patto è che uno si siederà di fronte all'altra e si leggeranno reciprocamente e ad alta voce quello che hanno scritto. Passano i giorni, entrambi scoprono sconosciuti lati di se stessi e anche delle insospettate tenerezze. Tim si preoccupa di non essere scoperto da lei mentre guarda sullo smartphone il risultato della partita dei Knicks mentre sono in un teatro off di Broadway. Jessica invece una sera dopo una festa gli lascia un messaggio su un foglietto in tasca, scrive: sono disperata, sono troppo esigente, sono sicura che non troverò mai l'amore. Tim reagisce in maniera strana a questo biglietto. Jessica scrive sul diario, infatti, appena ci siamo salutati il telefono ha cominciato a vibrare. Era sempre Tim, mi ha mandato un mucchio di messaggi, voleva sapere se alla festa prima avessi incontrato qualcuno che mi piacesse. Non vorrei dare una definizione avventata, ma mi sembra che stia diventando geloso. Il giorno dopo Tim scrive: Jessica ama dare definizioni a tutto e a tutti, parla troppo. Poi però nei commenti a margine scrive l'esatto opposto. Jessica parla troppo poco, sembra che non abbia voglia di parlare con me. Il giorno 15 sempre Tim scrive: questa relazione sperimentale sta rovinando la nostra relazione vera. Il punto principale sia per Jessica che per me è lavorare con sincerità sui nostri precedenti problemi di relazioni. Ho volutamente cercato di mettere da parte qualsiasi eventuale desiderio sessuale per paura di avvitare le cose su se stesse, però c'è qualcosa che stride, lo sento. Il giorno 20 Jessica scrive: adoro dare e ricevere appunti scritti a mano. Conservo tutti i messaggi che mi hanno scritto in una valigia di cuoio. Mentre SMS e posta elettronica ci attraversano senza fermarsi, una nota scritta a mano è molto più speciale e romantica. Oggi, verso la fine della colazione, Tim mi ha consegnato una busta marrone. Dentro c'era la più dolce e piccola cartolina di buon 20° giorno di anniversario. È incredibile quanto le piccole cose possono acquistare un grande significato in un rapporto. L'inevitabile succede il giorno 24. Dal diario di Jessica scrive così: a un certo punto durante il concerto ha preso la mia mano nella sua. Abbiamo chiacchierato del più e del meno fino a casa mia, tenendoci sempre per mano, ridendo di cose stupide. Ci siamo scambiati un sacco di baci. Una volta arrivati al mio condominio, l'ho invitato a casa. Timothy ne dà la conferma nel suo diario. Scrive: ci siamo baciati sul pianerottolo e poi nel suo appartamento. È stato romantico. Il giorno 27 lei parla di serata romantica e non vuole che finisca. Il 29, durante il loro incontro, Tim mostra a Jessica un elenco delle peculiarità della donna da sposare, secondo lui. La donna da sposare deve essere così, deve essere aperta alla vita, possedere senso dell'umorismo, essere intelligente, deve essere un sostegno, bella, onesta, spontanea, fiduciosa, sensuale. Deve desiderare di avere dei figli, deve amare il suo lavoro, viversela tranquilla. Essere sportiva, affettuosa, curiosa. Deve lasciarlo libero di guardare il basket. Deve possedere un iPhone, non avere una mail AOL e non essere razzista. Jessica non glielo dice, ma nel diario confessa che sono tutti particolari anche suoi. L'esperimento prende la mano a Jessica e a Tim, ma il 40° giorno si avvicina. I giorni passano sempre più veloce, 30, 31, 32, 35, 38. La mattina del 40° giorno Tim scrive: non riesco a credere che sia finita. Mi sento così vicino a lei. Ora so che mi sono innamorato di lei. Sì, l'amo. Quell'ultimo giorno lo passano in una specie di zoo. Il posto giusto, dice Jessica, dove stare per immalinconirsi e contemporaneamente sfuggire al dolore di una cosa che sta finendo. Escono, bevono qualcosa e vanno a cena insieme. Dopo una cena chiamano un taxi. Abbiamo condiviso il ritorno a casa insieme, dice Jessica. Il tassista ha accompagnato prima lui. Erano le 23:58. Il 40° giorno stava per scadere. Abbiamo riso, poi Tim è uscito dalla macchina e mi ha dato un pacchetto. Qualche settimana prima, in un museo, gli avevo comprato un libro rilegato di tovaglioli. Aveva disegnato su ogni tovagliolo 40 illustrazioni di cose che gli piacciono di me. È stato uno dei regali più dolci che qualcuno mi abbia mai fatto. Era come se fossimo dentro una specie di fiaba contorta in cui non piangiamo perché sta finendo, ma ridiamo perché è accaduta. Come nelle fiabe, allo scoccare della mezzanotte, mi ha lasciato con un bacio d'addio. kisses our last goodbye. I hate to feel the love between us die, but it's over. Just do this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. Questo splendido pezzo di Jeff Buckley per chiudere questa storia, Last Goodbye, lo sceglie Luca Micheli. Ma vi ricordo che questo programma è fatto da un gruppo di persone straordinario senza il quale non potremmo farlo. Sono Anita Panizza, di cui abbiamo letto anche una pagina di diario, Paolo Corleoni che sta di là dal mixer, e Mauro Pescio che, oltre a raccogliere e raccontarci la storia seriale, scrive questo programma insieme a me. Invece la storia che vi abbiamo raccontato è tratta da questa blog che i due ragazzi hanno tenuto per 40 giorni, si intitola esattamente 40 Days of Dating, 40 giorni di appuntamenti, o usciti per 40 giorni. Letteralmente, chiaramente è una cosa anche un po' furba, lui è un illustratore e lei anche, trovate le foto dei biglietti del teatro, trovate gli scontrini delle cene, è una storia che a modo suo è stata interessante da leggere, e se volete approfondire andate lì a cercarvela. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. E noi, durante la prima parte di Linee d'Ombra di questa stagione, quella in cui raccontavamo nello specifico i vizi capitali, quando parlavamo di lussuria chiamavamo lui praticamente tutti i giorni, e anche adesso che abbiamo allargato il cerchio delle nostre storie, l'abbiamo allargato a storie di confine, in questo caso il confine è molto netto, o mi innamoro oppure no, non abbiamo ovviamente non ci abbiamo pensato due volte a non chiamarlo. Lui è il nostro sessuologo di riferimento ed è Fabrizio Quatrini. Pronto? Ciao Fabrizio, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno anche a te. Fabrizio, noi l'abbiamo chiamato perché, oltre a essere docente di clinica delle parafilie della devianza alla Facoltà Medicina e Psicologia dell'Aquila ed è presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma, è anche uno dei protagonisti di un programma che ha qualcosa a che fare con la puntata di oggi, che si chiama Matrimonio a Prima Vista, che va in onda su Real Time, e in cui esattamente cosa succede, Fabrizio, per chi non l'avesse mai visto, cosa accade in Matrimonio a Prima Vista? Beh, Matrimonio a Prima Vista in realtà è proprio un esperimento sociale, che permette praticamente delle persone che sono state selezionate e quindi scelte ad hoc da me e altri due colleghi di riuscire in qualche modo a trovare l'anima gemella, cioè nel senso loro si vanno ad incontrare per la prima volta proprio sull'altare, e il momento in cui si incontrano lì speriamo di aver trovato la coppia giusta. E poi cosa fanno? Si incontrano sull'altare, non si sono mai visti prima, però come sono stati selezionati? Appunto, in base a te e altri due esperti che insomma avete deciso che uno e l'altro potevano essere compatibili, giusto? Sì, esatto. Praticamente quello che succede è che le persone vengono selezionate sulla base di alcuni test attitudinali o comunque legati anche alla compatibilità proprio di carattere e anche di emozionalità e di sensualità, tutta una serie di colloqui e test che permettono di individuare quelle che potrebbero essere realmente le compatibilità. E una volta che sono sposati, quanto stanno insieme? Allora, questa è una cosa molto particolare, fa parte proprio dell'esperimento, no? In qualche modo loro hanno la possibilità di viversi semplicemente un mese abbondante, perché loro hanno dopo il matrimonio la prima settimana che è il viaggio di nozze e poi altre 4 settimane di forzata convivenza, Dopodiché ci sarà un reunion con noi appunto a studio per vedere che cosa sta succedendo. Se decido di continuare, diamo la possibilità di stare insieme altre 6 settimane e a quel punto ci sarà un follow up per vedere se le cose funzionano. E quante coppie avete formato, avete creato? Allora, io in questo programma ci sono dalla scorsa edizione, quindi okay, la prima volta che lo facevo, però il programma è arrivato alla 4ª edizione e ci sono state quindi già 12 coppie, di cui queste 12 coppie solo una al momento ancora funziona. Questo per far capire quanto è complesso, no? Probabilmente sposarsi al buio e riuscire anche a stare insieme un po' per certo. Fabrizio, a questo proposito, che cosa ci insegna un'esperienza di questo tipo sull'amore? Se si può capire qualcosa sull'amore, ovviamente, ma ci dice qualcosa? Ma guarda, io credo una cosa importante, cioè il fatto di, a parte stare insieme, ma anche riconoscersi come individui da potersi innamorare, no, dell'altro. In realtà ci sono delle compatibilità che sulla carta funzionano tantissimo, ma poi nel momento la persona si annusa, dico io, cioè riesce a vedersi per la prima volta, non è quel momento decide improvvisamente se funzionerà o non funzionerà. E quello è un qualcosa che non è facile da mettere anche a livello scientifico, no? Nello specifico. Sono molti fattori che influenzano, sono molti fattori che possono complicare la situazione e sta a quel punto alle persone. Se le persone accettassero di stare insieme anche solo perché sono costruite sulla base di alcuni elementi non scientifici, potrebbe anche funzionare. A volte non è così facile. Che voi sappiate, Fabrizio, tutte quante le 12 coppie hanno consumato il matrimonio? Allora, questa è una domanda importante, perché in realtà ci sono state persone che si sono lasciate andare sia nel gioco dell'esperimento e a volte anche semplicemente legate proprio al discorso dell'eros, no? Che certo, poteva nascere, e quindi alcune persone hanno effettivamente consumato il matrimonio. Altre persone invece no, assolutamente. Quello è stato addirittura, ricordo l'esperienza di alcune di queste coppie nella scorsa edizione, è stato proprio il momento critico, no? Perché anche dormire accanto e pensare di poter avere un rapporto sessuale con la persona che non si conosceva diventava un'esperienza effettivamente molto complicata. Beh, direi che quello però, poi ti saluto, lo dico a te che lo fai di mestiere, mi sembra, diciamo, il primo step, se non accade nel 2020, intendo dire, magari, non so, in epoche o in altre culture questo è meno importante, i matrimoni si basano su altro, ma in questo caso mi sembra, no? Cioè che senza quello non allora ci sia... Cioè, ti do ragione, nel senso che sicuramente l'intesa sessuale è una grande intesa, no? All'interno delle coppie che si formano e che provano a stare insieme. Il fatto appunto di avere la sessualità, di vivere la sessualità, significa probabilmente un primo passo verso l'unione vera e propria. Oppure anche semplicemente il fatto di essersi divertiti, cosa che un po' di tempo fa probabilmente non funzionava. Fabrizio, grazie mille Fabrizio Quattrini, a presto, buona giornata. Grazie a te, buona giornata. Ciao. Anido d'ape o lisca di pesce, facciamo una casetta tutta come ci va. Mettiamo il letto sul pavimento, che al mal di schiena ci pensiamo nell'aldilà. Prendiamo tutti gli accorgimenti, la testa a nord, le gambe 10 gradi a sud-est. Vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, com'è che non ti muovi, com'è possibile? Poi fumiamo le sigarette, che a casa nostra non ci vengono mamma e papà, mangiamo tutte le scatolette, beviamo birra, andiamo a fare la spesa al discount. Vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, vieni a vivere come me, com'è che non ti muovi, com'è possibile. Lui è Dente, l'ultimo pezzo di quest'oggi, Vieni a vivere, sempre Luca Micheli che sceglie i nostri brani, e ora andiamo verso la chiusura di questa puntata con la nostra storia seriale. È l'ultima storia seriale che ci racconta un vizio capitale, è il vizio capitale quello della gola. Mauro Pescio ha incontrato Anna Maria, che è una nostra ascoltatrice, perché lei di fatto ci ha scritto a linedombra@radio24.it inviandoci una sua storia. Quando l'abbiamo letta ci siamo detti: questa probabilmente potrebbe tenere più di una semplice puntata, potrebbe tenerne diverse. Lei ha accettato la nostra richiesta, oggi lei è una chef, è una cuoca, ma ha vissuto un momento molto molto complicato con il cibo e con il suo corpo. Vivo a Padova da quando mi sono sposata, quindi da 30 anni, e in realtà sono nata a Venezia e poi trasferita appunto in terraferma, come si dice. E mio papà aveva un'attività, piccola attività, in quel mitico di Porto Marghera, mia madre invece è sempre stata casalinga. Mio papà, da questo punto di vista, è sempre stato per me un faro. È entrato in azienda da giovane apprendista. E grazie alla sua intraprendenza è diventato non solo il manager dell'azienda, ma poi ne ha fondata una sua. Io sono cresciuta in terraferma, tra Mestre e Spinea, ma Venezia mi rimane nel cuore. Mia nonna era veneziana e mio nonno napoletano. Dunque mio papà è mezzo napoletano e mezzo veneziano. Mio nonno paterno apparteneva ad una famiglia di una certa importanza, a Napoli. I figli maschi che frequentavano determinati tipi di studi, e le femmine altri. Il primo maschio frequentava l'Annunziatella per la carriera militare, il secondo figlio maschio una carriera religiosa. Il fratello di mio nonno era il cardinale Michele Pellegrino, un ecclesiastico intellettuale. Mio nonno paterno, Ferdinando, evidentemente non rispondeva, diciamo, ai dettami. Non appena ha finito l'Annunziatella è stato mandato al nord quasi in punizione, e io credo che sia stato per il vizio del gioco. Arrivò a Venezia, scoprì che c'era il casinò, dilapidò la sua dote e si fidanzò con mia nonna. Mio nonno ha mantenuto anche una relazione con un'altra donna per tutta la vita. Ha vissuto in questo modo per quasi 50 anni, nel senso che ha sposato mia nonna, ma ha continuato a frequentare anche quest'altra donna che io non ho mai avuto l'onore di conoscere, perché io queste cose le ho sapute solo più tardi. Quando mia nonna è morta, mio nonno ha osservato, da bravo meridionale, i 2 anni di vedovanza, i primi 6 mesi in nero, i successivi in grigio, ma con la fascia del lutto al braccio. 3 giorni dopo la fine del tutto, si sposò con l'altra donna, che era la donna della sua vita, secondo me. Mia mamma invece era proprio veneta, ma il nonno era mezzo austriaco. Quando mia mamma non riusciva a comprendermi nelle cose che facevo, nelle cose che dicevo, mi diceva in dialetto «Varamengo ti e che i terroni dei tuoi parenti», perché riconosceva in alcune mie caratteristiche quella stessa estrosità che vedeva nel suocero, e non era felice. Mio padre, durante la mia infanzia, invece, l'ho visto pochissimo. Ho sempre visto grande lavoro, grande impegno, e mio papà ha cominciato a vederlo verso gli 8-9 anni al sabato, perché magari stava mezza giornata a casa e poi la domenica, perché partiva presto la mattina e tornava tardi la sera. Io andavo a letto dopo Carosello, per cui non c'era. Quindi è stato questo l'imprinting, un'educazione comunque molto severa anche da parte di mia mamma. Amo la pacatezza dei nostri ascoltatori che in un messaggio al 349-238-6666 riferito all'esperimento sociale, così raccontato da Fabrizio Catrini di Matrimonio a Prima Vista, scrive semplicemente: che esperimento sciocco. Ciao, Francesco. Io vi do appuntamento a domani, non prima di avervi ricordato di riascoltare i nostri podcast, di mandarci le vostre storie. Noi continuiamo a raccoglierle. Vi dicevo, se avete voglia di mandarci storie della vostra vita per distrarvi, linee d'ombra@radio24.it. Se volete mandarci i diari di queste giornate particolari, linee d'ombra@radio24.it. Se andate su Spotify trovate la playlist del nostro programma, quindi potete ascoltarci, raccontarci le storie, e potete anche solo ascoltarvi le musiche che scegliamo per voi. Ci sentiamo domani, Linea al GR, noi domani alle 15 per raccontare storie, che anche adesso e soprattutto adesso raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!